fino a metà febbraio. Per questo Barack Obama ha preferito non dare troppi dettagli. Il presidente eletto invece ha dato una visione. Da una parte i rischi, il rischio che l'economia americana possa perdere fino a 1.000 miliardi di dollari se non si farà nulla, la promessa, quella di raddoppiare il consumo di energia pulita, di energia verde in 3 anni, quella di computerizzare tutte le informazioni, le cartelle mediche di ogni americano, quella di rilanciare l'economia attraverso la tecnologia ambientale. Mario Platero, GR24, Il Sole 24 Ore, New York. E questa mattina dal Giappone un altro segnale, anche la Kawasaki ha annunciato formalmente la decisione di ritirare con effetto immediato la propria scuderia dalle competizioni della moto GP. Alla base del ritiro, ha spiegato l'azienda, il sensibile calo delle vendite, si risparmieranno in un anno oltre 31 milioni di euro. Una sorta di ONU per l'economia, l'avete sentito, la proposta italiana. L'altra notizia della notte è l'accordo finalmente raggiunto all'ONU su una risoluzione che chiede il cessate il fuoco a Gaza. Ma intanto proprio le Nazioni Unite hanno sospeso gli aiuti umanitari. Con 14 voti a favore e l'astensione degli Stati Uniti, questa notte il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha approvato la risoluzione che chiede l'immediato cessate il fuoco a Gaza tra Israele ed Hamas dopo 13 giorni di combattimenti che hanno causato più di 700 morti. L'annuncio del segretario delle Nazioni Unite Ban Ki-moon. The resolution calls for an immediate and durable ceasefire in and from Gaza. Un cessate il fuoco immediato, duraturo e pienamente rispettato, sottolinea Ban Ki-moon, che conduca ad un ritiro completo delle forze israeliane da Gaza e permetta la fornitura senza ostacoli e su tutto il territorio della striscia di aiuti umanitari, compresi cibo e medicine. La risoluzione, che è arrivata a conclusione di una mediazione avviata a inizio della settimana dal presidente francese Nicolas Sarkozy e dal presidente egiziano Hosni Mubarak, condanna ogni violenza e ostilità diretta contro i civili e ogni atto di terrorismo, incoraggia una riconciliazione interpalestinese e invita ad urgenti sforzi da parte della comunità internazionale per arrivare ad una pace globale tra Israele e Palestina. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. In un contesto di mancanza totale di sicurezza, anche le Nazioni Unite hanno deciso di sospendere gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. Nel pomeriggio l'aviazione israeliana ha colpito un convoglio dell'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, uccidendo l'autista. Da Gerusalemme, Filippo Grandi, vicecommissario generale di UNRWA. Questi fatti si sono verificati, sono gravissimi, noi non possiamo operare in queste condizioni, abbiamo detto che sospendiamo le operazioni finché riceviamo delle garanzie dal governo israeliano. Le ONG denunciano che la situazione umanitaria nella striscia si aggrava di ora in ora e soprattutto non c'è nessun luogo sicuro. Jessica Turraz, field coordinator di Medici Senza Frontiere. Non c'è più elettricità, lavoriamo con i generatori 24 ore su 24, non c'è più pane nelle panetterie e c'è gente che aspetta ore in coda per la strada per avere anche solo 2 pezzi di pane. Manca tutto e ancora una volta a soffrire è la popolazione civile. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E allora ci colleghiamo con il nostro inviato Ugo Tramballi. Ugo, buongiorno, come stanno andando le cose? Buongiorno, si continua a combattere come tutte le notti, come tutte le albe. La risoluzione in qualche modo offre qualche speranza, nel senso che è un decente compromesso fra quello che vuole il resto del mondo e chiede Israele, e cioè in sostanza è un cessate il fuoco immediato. È vero, Israele non voleva cessate il fuoco, ma in compenso non si chiede, una volta garantito il cessate il fuoco, l'immediato anche ritiro di Israele dalla striscia di Gaza, nel senso che Israele, l'obiettivo di Israele è quello di occupare zone sensibili della striscia di Gaza fino a che non sarà concordato un vero definitivo cessate il fuoco. A questo punto si rimette in moto la mediazione franco-egiziana che era rimasta bloccata per 2 giorni in attesa di una spinta da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ciò non significherà naturalmente cessate il fuoco immediato, c'è il rischio che qualche giorno di combattimenti ci sarà ancora, ci saranno anche altri morti, oramai si va verso le 700 vittime palestinesi, però almeno quantomeno si comincia a vedere all'orizzonte un filo di luce. Grazie a Ugo Tramballi. L'Europa alle prese con il braccio di ferro tra Russia e Ucraina potrebbe vedere presto riaperti i rubinetti del gas.

possiamo chiedere solo che gli vengano applicate sanzioni disciplinari. Oggi si rischia la replica, prevista l'assemblea degli addetti alla manutenzione all'Italia, altre proteste sono in calendario settimana prossima. E mentre a Fiumicino cresce la tensione tra i lavoratori, a Malpensa si sono seduti al tavolo amministratori locali, sindacati e associazioni di imprenditori. Liberalizzare subito slot e rotte, la richiesta al governo. Il futuro dello scalo varesino, ha spiegato il presidente della provincia di Milano Penati, deve essere quello di un grande aeroporto point to point. Giovanni Capuano, GR24, Il Sole 24 Ore. È legge da ieri il decreto Gelmini che riordina l'università. Il ministro dell'istruzione, Maria Stella Gelmini, intervistata da Elisabetta Fiorito. Cambia la prospettiva, si comincia ad affermare il merito, un utilizzo e un impiego attento ed oculato delle risorse pubbliche, una differenziazione fra le università virtuose e le università sprecone e poi una maggiore trasparenza nei concorsi. Abbiamo deciso di intervenire su concorsi già banditi introducendo il sorteggio proprio per garantire la massima correttezza e la massima trasparenza nella selezione dei professori universitari. Abbiamo poi trovato delle risorse a dispetto della polemica sui tagli sul diritto allo studio con 130 milioni di euro che consentiranno al governo Berlusconi di stanziare borse di studio per tutti i ragazzi capaci e meritevoli. Invece sulla scuola si dice che lei ha fatto un po' retromarcia sul maestro unico. Su una marcia indietro, in realtà quello che si è capito nel tempo è che il maestro unico è perfettamente compatibile con il tempo pieno. È Elena Senin, l'alpinista morta sulla Aconcagua. Morta anche la guida argentina che faceva parte della spedizione italiana. E intanto sta procedendo in queste ore la discesa dei tre compagni raggiunti dai soccorsi. I tre vengono portati in barella. Da 60 giorni Suor Caterina Giraudo e Suor Maria Teresa Olivero sono nelle mani dei loro rapitori, forse detenute in Somalia. Il sequestro è avvenuto nella cittadina di Elwak, in Kenya, il 9 novembre. Stanno bene, è stato comunicato ieri dalla Farnesina, secondo cui ci sono fonti che fanno sapere che sono in buone condizioni. Controcopertina. Fare del turismo il primo marchio del Made in Italy per rimettere in moto l'economia. È la strategia indicata dal protocollo d'intesa firmato ieri dai sottosegretari al turismo e allo sviluppo economico Vittoria Brambilla e Adolfo Urso. Una strategia confortata anche dai numeri, come ha spiegato Urso. Insieme le esportazioni, cioè il Made in Italy nel mondo, e il turismo rappresentano oltre il 40% del prodotto interno lordo italiano. Che l'Italia debba puntare tutto sulle sue bellezze sembra quasi scontato, eppure negli ultimi tempi il settore è stato trascurato tanto da farci scivolare al 28° posto della classifica sulla competitività turistica mondiale. Nei primi 8 mesi del 2008 la nostra bilancia turistica con l'estero ha registrato un incremento del 2,1% e anche la stagione invernale 2009 fa ben sperare. Il sottosegretario Brambilla è convinto che si debba fare di più e certo un ministero ad hoc sarebbe il modo migliore per iniziare. Ma a chi le chiede a quando il suo dicastero risponde. Questo governo intende puntare molto sull'industria del turismo proprio perché è convinto che può e deve rappresentare il volano per la nostra economia. Paola Cavadi, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. E prima di chiudere, come sempre, uno sguardo alla borsa di Tokyo, chiusura in ribasso con il Nikkei a meno 0,45%. È tutto per questa edizione di GR24, curata da Anna Migliorati ed Enrico Pagliarini, in regia Carmelo Lauricella. In studio Marta Cagnola, GR24 torna alle 7.30. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi. Amore, ma quei 200 euro che abbiamo prelevato, come li abbiamo spesi? 50 ristorante, 35 di supermercato, 70 di meccanico, 15 al cinema. Ma non erano 70 di ristorante, 50 di piscina, 35 di meccanico e 15 di supermercato? Se fossero 35 di piscina, 70 di supermercato. È difficile ricordarsi le spese in contanti. Con la tua carta di pagamento, invece, puoi sapere sempre quanto e quando spendi. La tua carta. Il vero vantaggio è usarla. Campagna promossa da Pagobancomat Visa. Nome? Sabrina Ferilli. Test, vai da Poltrone Sofà, scegli un sofà e lo paghi la metà. Lo fanno perché sei Sabrina Ferilli? Ma certo! No, perché da Poltrone Sofà sono iniziati i saldi a metà prezzo. Che sono matti? No, offrono tanti modelli in saldo al 50% e sconti da far girare la testa. Allora è matto che non vada Poltrone Sofà. Poltrone Sofà, da oggi saldi a metà prezzo. Beato chi sofà, il sofà. Numero verde 800 900 600. Che strada fa? Sulla 3 Salerno-Reggio Calabria resta chiuso lo svincolo di Villa San Giovanni in entrata e in uscita verso Salerno. Si sta provvedendo alla pulizia del manto stradale dopo il ribaltamento di un camion che è avvenuto nella notte. Il traffico è particolarmente intenso questa mattina intorno a Milano. Sulla tangenziale est in direzione Bologna ci sono code a tratti dalla tangenziale nord fino a Lambrate. Sul tratto urbano della 4 le code a tratti sono nelle due direzioni. Per quanto riguarda le condizioni del tempo, segnaliamo ancora nebbia in pianura tra Lombardia ed Emilia, in particolare sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia, nelle valli tra Lazio, Abruzzo e Campania e lungo le coste pugliesi. Sulla 24 Roma-L'Aquila-Teramo, nel tratto tra Valle del Salto e San Gabriele Colledara, non si vede oltre i 30 metri. Ne torniamo tra mezz'ora. Promo 24. Ecco una notizia dedicata ai professionisti che desiderano avere sempre il meglio. Da oggi c'è Top Line di TIM, un'offerta esclusiva per chi ha la partita IVA con il top di gamma dei telefonini di ultima generazione e un mondo di servizi inclusi. Con Top Line di TIM, oltre ad un telefonino esclusivo con GPS integrato, a scelta tra BlackBerry Bold, Nokia N96 e HTC Touch, avrai l'assistenza casco inclusa, 600 minuti di chiamate nazionali, 200 SMS, mail illimitate, navigazione internet e un'assistenza al cliente dedicata. E per i nuovi clienti il tutto con soli 65 euro al mese. Chiama il numero verde business 800 846 900 oppure visita il sito www.team.it. Ehi! Questo baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24. E tu non ci puoi far niente, niente. Buona giornata a tutti da Mauro Meazza, bentornati alla nostra rassegna stampa, l'appuntamento con i titoli che campeggiano sui quotidiani oggi in edicola. Cominciamo dal Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore punta la sua attenzione, il suo titolo più importante, sulla decisione tedesca di aiutare Commerzbank. Commerzbank va allo Stato, iniezione di 10 miliardi di euro, è la prima grande nazionalizzazione in Germania dopo i crack finanziari. Con il 25%, informa il Sole 24 Ore di oggi, diventa pubblico il controllo della seconda banca tedesca. La decisione è importante, viene anche sottolineata da un commento in prima pagina affidato a Beda Romano, che parla di una svolta a 180 gradi o quasi nella politica economica tedesca. Perché? Perché solo qualche settimana fa la Germania non esitava a criticare l'attivismo di Stati Uniti e Gran Bretagna e rifiutava di unirsi a una corsa multimiliardaria solo per dare l'impressione di fare qualcosa, questi aiuti appunto di massa decisi per il settore bancario. Da allora però, scrive Beda Romano, da allora la crisi ha avuto la meglio. Non solo il governo tedesco sta mettendo a punto un nuovo piano da 50 miliardi di euro, ma è anche stato costretto a nazionalizzare una banca, Commerzbank, e starebbe lavorando su un pacchetto da 100 miliardi in linee di credito per le imprese. Ieri, con un misto di candore e rassegnazione, il cancelliere Angela Merkel ha ammesso che in questo momento non vi è altra possibilità di lottare contro la crisi che accumulare montagne di debito. Questa la lettura in rapida sintesi fatta dal Sole 24 Ore sulla decisione tedesca di intervenire in aiuto della seconda banca nazionale. Sempre in evidenza sul Sole 24 Ore il voto intervenuto ieri che dà definitività alle norme sugli Atenei, alla riforma degli Atenei. Via libera definitiva alla riforma Gelmini, cambia l'università, criteri più selettivi per scegliere i docenti. Sul Sole 24 Ore di oggi, tra l'altro, trovate anche il testo di questo decreto legge che è diventato legge definitiva dello Stato, con i commenti, le spiegazioni per comprendere le varie disposizioni. Centropagina, sulla prima pagina del Sole 24 Ore, la vicenda Malpensa e Alitalia. Malpensa rimarrà un hub, Berlusconi a Bossi e Moratti, Air France non penalizzerà lo scalo. Un'altra protesta però, ricorda il Sole 24 Ore, a Fiumicino, cancellati 135 voli Alitalia. E lunedì c'è il board, riunione del Consiglio di Amministrazione di CAI. Poi le anticipazioni sul decreto anticrisi. Qui si preparano delle novità importanti, le apprendiamo dai giornali di oggi. Tra l'altro negli emendamenti, cioè nelle richieste di correzione per questo decreto legge che deve essere convertito definitivamente entro fine mese, non ci sono ancora, viene da dire, le promesse modifiche che riguardano i crediti d'imposta e l'aiuto per le famiglie, il cosiddetto bonus famiglie. Nelle correzioni che sono state visibili ieri, presentate, le proposte di correzione presentate dai relatori, ancora non c'è traccia di questo. Vedremo quindi nei prossimi giorni come evolverà, se queste disposizioni saranno modificate oppure meno. E poi, ancora 24 ore, gas in salita, il negoziato UE per riaprire le forniture dalla Russia. Vi segnalo come ultima cosa, dalla prima pagina del Sole 24 Ore, la truffa Madoff, l'inchiesta di Claudio Gatti per HSBC e UBS, ora c'è la paura dei risarcimenti, quindi un ennesimo effetto della crisi negli Stati Uniti, 3 miliardi di euro di perdite aggiuntive, scrive Gatti, potrebbe salire di tanto il costo della truffa Madoff per HSBC e UBS. Per anni i due colossi finanziari europei hanno agito da banche depositarie, cioè custodi dei cespiti di alcuni dei fondi che alimentavano la catena di Sant'Antonio di Bernard Madoff, e adesso gli investitori potrebbero rivalersi su di loro. Per la Svizzera UBS l'esposizione potrebbe essere di 1,4 miliardi di euro, per l'inglese HSBC di 1,6 miliardi di euro, che si andrebbero ad aggiungere al miliardo di dollari già dichiarato. Diamo una rapida occhiata, un rapido sguardo ad altre prime pagine. Per il Messaggero il titolo più importante è quello della questione Alitalia e delle vicende che riguardano Fiumicino e Malpensa. Fiumicino leader, più voli al nord, questa è la sintesi proposta dal titolo più importante del Messaggero. Alitalia, ecco la mediazione di Berlusconi, offerte, garanzie a Bossi su Malpensa. Ma intanto ieri c'è stato lo stop dei dipendenti di terra, sono stati cancellati, ricorda il quotidiano romano, 135 voli. Il garante ha detto apertamente, sono state violate le regole. In prima pagina sul Messaggero le proposte illustrate ieri dal presidente eletto degli Stati Uniti Barack Obama al Congresso. Obama, sconto fiscale per tutti, il neopresidente annuncia $1,000 di tasse in meno al 95% delle famiglie. Poi la frase di Obama, ripresa un po' da tutti i giornali, cambiare subito o la crisi si aggraverà e sarà molto lunga. Tremonti, sempre dalla prima pagina del Messaggero, informa che da noi i consumi hanno tenuto, ne usciremo, questa è l'indicazione del nostro ministro dell'economia, meglio degli altri. Ancora in evidenza sul Messaggero la sentenza che ha visto coinvolti i Moggi, l'ex direttore generale della Juventus e il figlio. Come sapete il processo si è concluso con una condanna di 18 mesi per il padre e 14 per il figlio, ma c'è naturalmente l'indulto e soprattutto è caduto l'impianto accusatorio che voleva una cosiddetta cupola, un sistema di controllo del calciomercato in carico a GEA World, che era la società appunto dei Moggi, che faceva capo ai Moggi. La vicenda è illustrata su molti giornali, immaginiamo che terrà banco anche nelle discussioni di tutti. Vediamo rapidissimamente qualche altra prima pagina prima di fermarci per il giornale Radio Flash. Dal Corriere della Sera, da Repubblica, il titolo più importante è dedicato alla striscia di Gaza, ancora bombe, l'ONU via da Gaza, colpito un convoglio delle Nazioni Unite, interrotti gli aiuti umanitari. Gli Stati Uniti chiedono a Israele di aumentare l'orario della tregua. E la Repubblica propone anche questa intervista con Obama, ecco il mio piano anticrisi. Le indicazioni sono un po' quelle esposte anche ieri pubblicamente. Ogni famiglia americana garantirò $1,000 in più, annuncia il presidente eletto. Voglio salvare 3 milioni di posti, cambiare la scuola e la sanità. Sempre sulla prima pagina di Repubblica la replica del sindaco Moratti, del sindaco di Milano Letizia Moratti, per le polemiche seguite al maltempo e ai disagi per la città di Milano. Moratti e la neve, non mi scuso. Il sindaco di Milano replica alle critiche, rifarei tutto. Marsiglia sarebbe andata peggio di noi. Questo appunto l'indicazione del sindaco Moratti, sindaco che ha anche scritto una lettera al Corriere della Sera, una lettera che trovate sul Corriere della Sera di oggi, annunciata in prima pagina. Milano e la neve, lettera del sindaco, la lezione preziosa dai disagi di questi giorni. Questa è l'indicazione che richiama sulla prima pagina del Corriere della Sera la lettera del sindaco di Milano, ma il titolo più importante del quotidiano di Via Solferino è dedicato alla striscia di Gaza. Rischi a Gaza, l'ONU ferma gli aiuti, allarme anche della Croce Rossa, e dal Libano razzi su Israele. Ampio spazio anche sul Corriere alla vicenda del processo GEA, condanne lievi per i Moggi, assolti tutti gli altri. Le pene per l'ex manager e il figlio sono coperte da indulto. Nella prima pagina del Corriere della Sera comincia anche un commento affidato a Mario Sconcerti, intitolato «La piovra che non c'è più». E ora ci fermiamo qualche istante per il giornale radio. Quei giorni perduti a rincorrere il vento. La settimana dal 12 al 16 gennaio, tutti i giorni alle 15, Radio 24 dedicherà uno speciale sulla vita e le opere di Fabrizio De André, in occasione del decennale della sua scomparsa. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi, amore che vai. Radio 24, la passione si sente. Scorte introvabili, inefficienze, alti costi di personale per la movimentazione, scaffalature non certificate? Chiedi a Modulblock, leader nella logistica di magazzino. Modulblock, membro certificato ACAI CISI, il risolutore qualificato dalla scaffalatura all'impianto automatico più complesso. Trasforma il tuo problema in opportunità. Chiedi a Modulblock. Modulblock.com, tecnologie e logistiche di magazzino. Se ai tuoi risparmi ci tieni, usa la zucca. Con Conto Arancio di ING Direct i tuoi soldi crescono e li puoi riavere quando vuoi. Messaggio pubblicitario. Per i fogli informativi e le condizioni contrattuali chiama l'848-852-852 o vai su ingdirect.it. Dal 19 gennaio, su Radio 24, ritornano... Sono Gianluca Nicoletti, questo è un avviso per i miei ascoltatori. È uscita la versione 2.0 di Melog, la trovate su Radio 24 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11, ma anche in replica notturna, sempre dalle 10 alle 11. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Radio 24, la passione si sente. Buongiorno, questi fatti in primo piano nei nostri notiziari del mattino. Obama sferza il Congresso per battere la crisi, ma l'Europa avverte l'America, nessuno può uscirne senza nuove regole. Accordo nella notte all'ONU, si chiede il cessate il fuoco a Gaza, ma intanto le Nazioni Unite sospendono gli aiuti. Condanne lievi per Moggi padre e figlio, cade il teorema GEA. Malpensa hub, Berlusconi assicura, Bossi incalza, la partita non è chiusa. Aggiornamenti e approfondimenti nella prossima edizione alle 7.58. Che tempo fa? Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona giornata agli ascoltatori di Radio 24. Migliora il tempo al nord con residua nuvolosità su basso Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna, soleggiato altrove. Cielo molto nuvoloso invece al centro-sud con ampie schiarite solo su Lazio, Alta Campania e Sicilia meridionale. Nubi associate a piogge e rovesci sparsi in Puglia meridionale, Basilicata, Calabria Ionica e qua e là lungo le coste della Sardegna. Temperature in leggero rialzo al nord, ventoso in Liguria, Tirreno, Isole e Ionio. E per il meteo è tutto. L'architettura è intorno a noi, costruisce il mondo in cui abitiamo, edifica la nostra storia. Repubblica e L'Espresso presentano Storia dell'architettura, una collana inedita per raccontare e capire le grandi opere dell'umanità dalle origini ai giorni nostri. Storia dell'architettura, in edicola, il primo volume a solo un euro in più con Repubblica e L'Espresso. Benvenuto alla Kuwait, desidera? Vorrei 200 euro di sconto subito. Vuoi un premio subito? Con Svele Vinci Kuwait ti premia subito. Tante card con 200 euro di sconto carburante e molti altri premi. Info su kuwait.it, scade il 31/1/09. Nella stampa, Belletta, la stampa. Bentornati al nostro sguardo sui giornali in edicola questa mattina. Stavamo esaminando le prime pagine con i titoli in maggiore evidenza. Proseguiamo allora questo sguardo complessivo con La Stampa. Il quotidiano di Torino decide di dare il maggiore risalto all'annuncio di Barack Obama, il presidente eletto degli Stati Uniti d'America. Obama: così salverò l'America, meno tasse per il 95% dei cittadini. E la frase anche del presidente eletto sulla necessità di agire rapidamente: agiamo subito o la crisi durerà anni. Si annunciano appunto risparmi di $1,000 a famiglia. La replica del presidente francese e la puntualizzazione del presidente francese Nicolas Sarkozy: il modello USA non è l'unico. E Tremonti chiede una intesa globale per la trasparenza. Sempre sulla stampa, nella parte alta della prima pagina, il richiamo per la vicenda della GEA, del processo GEA, caso GEA, la sentenza: i Moggi condannati ma soltanto a metà. Nelle pagine sportive che il quotidiano torinese comprensibilmente dedica in modo quasi integrale alla sentenza su GEA, il titolo grande è significativo, si dice appunto quasi assolti. I Moggi condannati ma il sistema, il cosiddetto sistema, appunto, la parola è riportata tra virgolette, viene smontato. Ecobolli torna sulla vicenda polemica dello scudetto, poi che fu assegnato dopo le decisioni della giustizia sportiva questa volta. Se è così, la Juve ha meritato 29 scudetti, quindi immaginiamo ulteriori motivi di dibattito e di discussione relativi a questa prima decisione della magistratura per Moggi, padre e figlio. Proseguiamo nella nostra lettura delle prime pagine. Libero, abbiamo visto ieri, Libero ha dedicato la sua apertura, il suo titolo più importante, a Di Pietro, chiedendo una serie di spiegazioni al leader dell'Italia dei Valori. Oggi ospita la replica di Antonio Di Pietro e Di Pietro reagisce. La polemica di Libero, questo l'argomento della prima pagina del quotidiano diretto da Vittorio Feltri: il leader dell'Italia dei Valori accoglie il nostro invito alla trasparenza dei conti e risponde punto per punto alle osservazioni pubblicate ieri da questo giornale. Non abbiamo lavorato invano. Nella posizione alta della prima pagina di Libero comincia appunto questa replica di Di Pietro, l'ex PM, vi spiego tutte le cifre, accompagnata da un commento di Vittorio Feltri che è accanto alla lettera di Di Pietro: il nostro dovere di cani da guardia. Qualche volta, scrive Feltri, come in questo caso, c'è la prova che il nostro lavoro è utile. Ancora su Libero una valutazione decisamente di parte, insomma, viene da dire, per la vicenda Moggi. Moggi condannato per mancanza di reati, sentenza assurda, scrive Renato Farina sulla prima pagina di Libero. Vi segnalo il Secolo XIX perché il quotidiano genovese dedica il suo maggiore titolo a una testimonianza, un'intervista. Ecco la mia vita di sacerdote gay. Un prete ligure rompe il tabù dopo la svolta di Avvenire. Cosa è successo? C'è stata una sostanziale apertura riportata appunto da Avvenire in merito alla possibile omosessualità dei sacerdoti. Il Secolo XIX riferisce di questa storia di questo sacerdote che, appunto, un parroco in un comune della Liguria, cinquantenne, che vive, sono parole sue, con molta serenità la propria condizione di omosessuale e sacerdote. Proseguiamo con altre prime pagine. Allora prendiamo proprio l'Avvenire, che naturalmente si concentra sempre molto sulle questioni della Striscia di Gaza. Ieri c'è stato anche questo intervento importante del Papa, che viene così riassunto dal primo titolo del quotidiano: pace, sforzi da raddoppiare. Il Papa, il Medio Oriente, trovi leader in grado di riconciliare. Serve questa la sintesi che viene presentata dal quotidiano della Conferenza Episcopale, una nuova classe dirigente per portare avanti il processo di pace in Medio Oriente. Mai può essere una soluzione l'opzione militare. Questo appunto il senso dell'intervento del Papa nell'annuale incontro con la diplomazia. Il Papa ha chiesto il ripristino della tregua a Gaza per ridare alla gente, virgolettate le parole del Papa, condizioni di vita accettabili. Sempre sulla prima pagina di Avvenire la vicenda all'Italia. All'Italia Air France decolla, ma da Bossi è ancora pressing. L'accordo, appunto, l'intesa di che era aspettata, che era auspicata per ieri con l'incontro tra Bossi e Berlusconi, non sembra aver prodotto una situazione ancora definitiva, e infatti sui giornali le letture sono le più diverse. Obama, ancora anche per Avvenire, aiuti subito, la crisi durerà anni, la richiesta del presidente eletto degli Stati Uniti. Allora vediamo un attimo questa vicenda Malpensa. Ieri appunto c'è stato questo incontro, i quotidiani ne riferiscono con posizioni comprensibilmente diverse. Ad esempio per l'Unità una grande foto di un segnale di rotatoria, quindi frecce che girano in cerchio, e il polemico titolo: torna al via, scandalo all'Italia, dopo 10 mesi resta in pista solo Air France, la truffa patriottica ci è costata 4 miliardi. Questa è la posizione che viene presentata da Unità e la valutazione che viene data dello sviluppo della vicenda all'Italia Malpensa Fiumicino. La Padania, la voce del Nord, che abbiamo visto in questi giorni appunto di contrapposizioni tra il leader della Lega Nord e lo stesso Presidente del Consiglio, annuncia invece Bossi intesa per Malpensa. Il senatore incontra Berlusconi, da parte del Premier c'è la volontà di risolvere il problema dello scalo. E poi una segnalazione sempre dalla Padania: esclusivo, Lufthansa rilancia con una proposta economica e non solo industriale. Anche sul Sole 24 Ore di oggi si dà conto di queste disponibilità manifestate da Lufthansa, le vedremo magari nell'ultima parte della nostra rassegna stampa. Lufthansa rilancia, scrive appunto la Padania, la proposta economica, non è solo una proposta industriale, CAI dica che cosa vuole. E poi polemicamente la Padania definisce inutili e tardive le scuse degli islamici per la vicenda della preghiera sul sagrato di Piazza Duomo. La vicenda Malpensa anche su il giornale ha questo argomento come argomento centrale della prima pagina. Malpensa, adesso Lufthansa riapre la partita. Berlusconi, Air France in vantaggio, ma i giochi non sono chiusi, Milano non sarà penalizzata. Queste le parole del Presidente del Consiglio riferite sulla prima pagina del giornale, che dedica però il suo titolo più importante pure al leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro: la verità sulle case di Di Pietro. Ha immobili in mezza Italia, persino in Bulgaria, compreso un appartamento che per legge non avrebbe potuto acquistare. Dichiara meno di 200.000 euro, ma in 7 anni ha speso 4 milioni, come ha fatto? Questo è il richiamo di un'inchiesta che viene poi presentata nelle pagine interne. E dal giornale traiamo anche una notizia che è presente poi in quasi tutti i quotidiani, direi, cioè questa iniziativa decisamente sorprendente, per non dire di peggio, di questo sindacato che a Roma ha lanciato una sorta di appello a non acquistare merci nei negozi gestiti da ebrei. Il titolo della notizia affidata alla penna di Paolo Guzzanti per il giornale, e il sindacato fa la lista di proscrizione dei negozianti ebrei. Vergognosa azione antisemita a Roma. E naturalmente questo tipo di iniziative fa tornare alla memoria iniziative ben più tetre e sinistre che abbiamo visto nel secolo scorso. Ritorniamo allora sul Messaggero per vedere come viene presentata questa vicenda proprio dal quotidiano di Roma. Proposta shock di un sindacato autonomo, boicottare i negozi ebraici, Roma insorge, così il titolo del Messaggero. Raffaella Troili spiega appunto quello che è successo: non entrate nei negozi della comunità ebraica romana, boicottateli per protesta contro il massacro a Gaza. L'invito scioccante, perché ricorda liste e boicottaggi messi in atto con le leggi razziali, è stato fatto da un sindacato autonomo, si chiama Fly Kakub, e ha provocato proteste bipartisan e indignazione. Una follia, ha detto il sindaco di Roma Gianni Alemanno, che in segno di solidarietà è andato nei negozi del centro, che sono proprietà appunto di ebrei. Nella pagina interna poi la collega Troili riferisce appunto di questa iniziativa del sindaco come reazione alla proposta shock, a questo boicottaggio degli acquisti nei negozi che si rifanno alla comunità israelitica romana. Il sindacato raccoglie, informa sempre il Messaggero sotto la sua sigla, circa 8.000 lavoratori tra la grande distribuzione e la ristorazione romana. Ha diffuso appunto questo volantino molto polemico intitolato Saldi sporchi di sangue, in pratica contro i missili a Gaza, informa Troili. Il sindacato ha lanciato un altrettanto pericoloso boomerang, che è quello appunto di boicottare gli acquisti nei negozi di ebrei. Alemanno, il sindaco di Roma Alemanno, ha subito condannato l'iniziativa e ieri appunto si è reso anche protagonista di una sorta di shopping dimostrativo. Ha acquistato appunto degli oggetti di abbigliamento in alcune delle vie centrali, e tra l'altro nell'articolo si riferisce che i proprietari di uno dei negozi dove si è recato il sindaco ieri avevano anche trovato le vetrine coperte di sputi. Sono segnali decisamente preoccupanti che appunto riportano alla memoria questioni molto molto più sinistre. Cambiamo argomento con Liberazione. Liberazione dà il suo primo titolo e la fotografia della prima pagina alle questioni della striscia di Gaza e della guerra. Tregua violata, colpi contro l'ONU, la Croce Rossa a Gaza dice fatti scioccanti. Sulla prima pagina, nella parte bassa della prima pagina di Liberazione, Franco Berardi Bifo si chiede perché tante polemiche sui musulmani che pregano in piazza. È un lungo articolo di commento affidato appunto a Berardi Bifo, ma c'è un altro commento che è interessante notare, affidato a Rina Gagliardi. Università, una pessima riforma. Il commento si riferisce naturalmente al decreto che è divenuto ieri definitivamente legge con il voto della Camera. Il decreto Gelmini sull'università da ieri è legge, e Gagliardi scrive polemicamente: non abbiamo alcun dubbio che si tratti di un provvedimento pessimo, al di là dei contenuti. Gagliardi è molto critica sul metodo, dice la frettolosità con cui la questione è stata trattata, senza nemmeno un dibattito, un confronto in Parlamento, che ha licenziato il decreto attraverso il solito ennesimo voto di fiducia. Ebbene, che cos'è se non la prova che siamo di fronte, sì, a una filosofia regressiva, ma siamo soprattutto alla cancellazione di ogni ruolo degno di questo nome delle istituzioni rappresentative. Quindi le iniziative di innovazione, i contenuti innovativi del decreto, ancora prima di esaminare questi contenuti, di criticarli, la Gagliardi critica appunto il ricorso al voto di fiducia che si è reso necessario per poter avere la definitiva conversione in legge del provvedimento. Provvedimento che, ricordo, potete trovare con testo e indicazioni sui contenuti sul Sole 24 Ore di oggi. Concludiamo questa seconda parte della nostra rassegna stampa con la Gazzetta dello Sport. Ovviamente per la Gazzetta dello Sport molto spazio in prima pagina, nella parte alta, al processo GEA. Violenza privata, i Moggi condannati, a Luciano Moggi 18 mesi, ad Alessandro 14, assolto il figlio di Lippi, dell'allenatore della nazionale. Processo GEA, riferisce la Gazzetta dello Sport, in primo grado cade l'associazione a delinquere. Il commento di Ruggero Palombo, interessante, intitolato Punito e contento, lo vedremo poi nell'ultima parte. Il titolo più importante è poi dedicato a Del Piero, parla Del Piero, Juve, questo è il momento, l'Inter possiamo prenderla, quindi si torna sulle tematiche del calcio giocato che da domani riprenderà appunto il campionato. E ora ci fermiamo un istante per le informazioni sul traffico. Che strada fa? A causa del forte vento è temporaneamente chiuso il porto di Genova, sia il VTE, il Voltri Terminal Europa, sia il SEC. Potrebbero formarsi code di mezzi pesanti in attesa di poter accedere ai varchi portuali. In autostrada segnaliamo raffiche di vento sulla 10, la Genova Ventimiglia da Voltri fino a Sanremo e sulla 6 Torino-Savona nel tratto tra Altare e Savona. Sempre in tema di condizioni meteo segnaliamo neve sulla 32 Torino-Bardonecchia tra Rivoli e Bardonecchia, mentre c'è nebbia in pianura tra Lombardia ed Emilia, nelle valli tra Lazio, Abruzzo e Campania e lungo le coste pugliesi. Sulla 26 dei trafori, i rallentamenti tra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce sono per lavori. E proseguono anche i lavori sulla 3, la Salerno-Reggio Calabria, allo svincolo di Villa San Giovanni, che resta chiuso in entrata e in uscita in direzione Salerno. Si sta provvedendo alla pulizia del manto stradale e nella notte si era ribaltato un mezzo pesante. Noi torniamo tra mezz'ora. Pubblicità. È la banca per me, fatta apposta per te, ma quel che amo in lei è il 4,70 che una promozione non è. Il conto deposito di Chebanca ti dà il 4,70% sul deposito a un anno e hai subito l'importo degli interessi. Fogli informativi all'848-444488 o su chebanca.it. Chebanca! Gruppo Mediobanca. È la stampa dell'Etta, la stampa. Ancora un buongiorno da parte mia, da Mauro Meazza, per questa rassegna stampa che andiamo a chiudere fino a qualche minuto prima delle 8. Stavamo parlando del processo GEA, della condanna intervenuta per Moggi padre e figlio. Immaginiamo che sarà una condanna che farà molto discutere un po' tutti gli appassionati di calcio. Fa anche un po' specie veder usato un frasario che avevamo sentito riferire in questi anni ad altre vicende giudiziarie di diverso rilievo, non direi di diversa importanza, visto appunto il seguito che anche i giornali oggi danno a questa sentenza. Si parla anche qui di crollo del teorema giustizialista, crollo del teorema della procura e altre indicazioni appunto che abbiamo imparato a conoscere in questi anni. Restiamo sulla Gazzetta dello Sport per capire qualche cosa di più sulla sentenza GEA. La cronaca è affidata a Maurizio Galdi, appunto riferisce di due condanne, quattro assoluzioni. Si chiude così il processo GEA, almeno la prima puntata, o per dirla in termine calcistico, il primo tempo. La difesa può sorridere, l'accusa meno. Comunque una sentenza di condanna c'è stata, la prima, e il PM Luca Palamara per questo può sorridere. Lui ha puntato sulla violenza, i giudici hanno accolto questa tesi, almeno per quanto riguarda quattro episodi contestati, e tra tutti quello relativo al calciatore Blasi. Galdi poi spiega nel dettaglio la vicenda, sia giudiziaria sia i suoi esiti, ma andiamo un istante sul commento che ha affidato appunto a Ruggero Palombo, come vi dicevamo nella parte precedente. Il titolo è Punito e contento. Perché punito e contento? Perché ovviamente è caduto appunto questa idea dell'associazione delinquere sul meccanismo che reggeva, o secondo le tesi dell'accusa avrebbe dovuto reggere, il condizionamento di GEA nei confronti dei calciatori e delle squadre italiane. Però avverte Palombo nella parte finale Condannato e contento, Luciano Moggi farà comunque bene a non cantare troppo presto vittoria, perché, ricorda Palombo, ben altra partita lo attende presso il Tribunale di Napoli, dove dal 20 gennaio comincerà il processo per calciopoli. Lì il capo di imputazione è associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva. Anche se i procuratori Beatrice e Narducci hanno buone carte in mano, non è detto che in sede penale il loro impianto accusatorio regga interamente. Ma questo al calcio e alle sue sentenze che sono già passate in giudicato interessa poco, se non a ricordare a tutti noi che quel che è reato per la giustizia sportiva non necessariamente lo è per quella penale, e a nessuno è consentito marciarci sopra. Quindi un distinguo tra gli esiti sportivi della vicenda Gea Calciopoli e quelli che sono adesso, da ieri, appunto, i primi esiti in ambito giudiziario. Torniamo un istante sul Sole 24 Ore, perché vi vorrei segnalare un risvolto inatteso in qualche modo della vicenda Air France e Malpensa. Naturalmente sul Sole 24 Ore di oggi trovate un ampio articolo affidato a Gianni Dragoni sulla vicenda, appunto, Air France, Lufthansa, Fiumicino, Malpensa. Il titolo è: con Air France trattativa a buon punto. Bossi rimette però in partita. Lufthansa ha fatto una proposta. La replica di Berlusconi, CAI la esaminerà. Il vertice ieri con Moratti e Alemanno, il Premier rassicura, nel contratto con i francesi l'aeroporto lombardo resterà come hub. Quindi la sintesi nelle prime righe di Gianni Dragoni è la seguente: Air France KLM si avvia a diventare il partner azionario della nuova Alitalia, nonostante il tentativo di rimonta di Lufthansa e il pressing politico della Lega. L'operazione all'esame oggi a Parigi del Consiglio di amministrazione del vettore franco-olandese, ma l'annuncio sarà dato solo lunedì 12 gennaio dopo il Consiglio di amministrazione di CAI Alitalia. Solo se Lufthansa dovesse presentare nelle prossime ore un'offerta precisa, CAI la considererà, ha detto il Premier Silvio Berlusconi. Questo appunto la sintesi di quanto è successo nella giornata di ieri, giornata che ha dato delle indicazioni e che però dovranno essere confermate nei primi giorni della prossima settimana. Ma c'è anche un bel lavoro di Marco Alfieri, sempre sulla stessa pagina del Sole 24 Ore, dedicata alla vicenda all'Italia. Sui giornali del 1992 i titoli di oggi, scritto appena ieri. Perché poi la nemesi di tutta questa vicenda incartata su slot e tagli di rotte, Malpensa Olinate, Malpensa Fiumicino, è che, scrive Alfieri, non c'è nulla davvero di inedito. Bossi contro Berlusconi? Ma che? Tutto è già accaduto, scritto, polemizzato, commentato più volte. E da lì, appunto, esaminando gli archivi del Sole 24 Ore del Corriere della Sera, Alfieri segnala che polemiche intorno al ruolo di Malpensa, alla grande Malpensa, al ruolo che deve svolgere Malpensa nel traffico aeroportuale sono cominciate nel 1985, sono esplose più o meno come in questi giorni nel 1992 e così via. Insomma, ce le siamo un po' trascinate, portate dietro con una, verrebbe da dire, coazione a ripetere fino alle giornate odierne. Vi segnalo come ultima indicazione sul Sole 24 Ore il decreto legge anticrisi. Il decreto legge anticrisi contiene una serie di misure che devono essere rese definitive appunto dal Parlamento, dalla conversione parlamentare. Ieri sono state depositate alcune richieste di modifica a queste misure per farle appunto diventare definitive in una forma diversa da quella originale. Ci sono alcune cose importanti, ad esempio non sarà più richiesto di restituire lo sconto del 3% che è stato fatto sui versamenti IRAP e IRES di novembre, scomparirà questa richiesta di restituzione, non c'è invece ancora alcuna richiesta di modifica per il bonus alle famiglie e per la parte dei crediti d'imposta, il cosiddetto 55% appunto, che doveva invece avere una richiesta di modifica. Probabilmente sono richieste che vedremo nei prossimi giorni. Informa Marco Rogari che per ora si prevedono assegni alle famiglie in aumento, il bonus però non cambia. Il pacchetto dei relatori, giudicato però insufficiente dalla PD e UDC, destina 20 milioni per aiutare le famiglie a basso reddito in affitto, non include le annunciate misure su studi di settore né il bonus ricerca, neppure il ripristino dell'ecobonus sulle ristrutturazioni, che però potrebbe spuntare nelle prossime ore. Quindi i giochi si stanno facendo in questi giorni per quanto riguarda la versione definitiva del provvedimento che deve sostenere consumi e famiglie in questa fase di crisi. L'ultimo titolo che vi segnalo sulle 24 ore, la crisi dei fondi. I fondi comuni hanno chiuso l'anno 2008 con un risultato effettivamente pessimo. Un editoriale di Marco Liera intitolato "L'anno nero dei fondi, i costi da tagliare", invita gli stessi gestori e anche il legislatore, se possibile, a fare qualche cosa per dare stimolo alla situazione. L'andamento del settore viene riassunto da Isabella Della Valle con il titolo "Fondi, una crisi da 140 miliardi, nuovo record storico negativo per un settore che è sempre in attesa di riforme strutturali". Vi segnalo qualche curiosità in questi ultimissimi minuti. Nella vicenda Malpensa Fiumicino spunta anche un risvolto televisivo. "La pasionaria del Cappio", scrive il giornale, "trova un posto sicuro alla casa del Grande Fratello". Di che si tratta? Si tratta della hostess Marushka Piredda, che aveva avuto anche una notorietà televisiva, in qualche modo essendo stata invitata nelle trasmissioni a parlare delle vicende di Alitalia. "Domani si attende", scrive Cristiano Gatti sul giornale, "l'annuncio ufficiale della nuova squadra che da lunedì entrerà nella casa del Grande Fratello. Secondo le indiscrezioni ultimissime e attendibilissime, lei ci sarà". Piredda scartata, Martani promossa, quindi non Marushka Piredda ma Daniela Martani. Piredda scartata, Martani promossa, questo è il pronostico che viene fatto da Gatti, un risvolto inatteso della vicenda Malpensa all'Italia. E con questa indicazione si conclude la nostra rassegna stampa. Io ringrazio Carmelo Lauricella per l'assistenza in regia e vi do appuntamento a domani. Grazie e buona giornata. Buongiorno Gigi. Oh, come stai? Corro a pagare i contributi previdenziali per Alina, la mia Golf. Lo sai che puoi andare anche qui, in tabaccheria? Dal tabaccaio? Eh sì, con il progetto Reti Amiche. Puoi pagare perfino la quota per il riscatto della laurea. Meglio, no? La pubblica amministrazione con il progetto Reti Amiche ti semplifica la vita. Per conoscere i servizi offerti da Reti Amiche, visita il sito innovazionepa.it oppure tabaccai.it. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, con la Federazione Italiana Tabaccai. Fettuccelle fresche con lepre, castagne e pecorino. Filetto di baccalà marinato al miele di Erica. L'alta cucina è fatta soprattutto di segreti. Scoprili con le ricette dei grandi chef del Sole 24 Ore. In esclusiva per voi tutto quello che i talenti dell'alta cucina non hanno mai svelato a nessuno. Nel primo numero Aimo e Nadia, in edicola. A chi cerca una nuova partenza, il 13 gennaio, dall'Unione di Alitalia e di Air One, nasce per voi la nuova compagnia aerea. Forte di una grande tradizione, di un nuovo e ampio network di collegamenti e di una flotta moderna ed efficiente. Le vostre miglia sono sempre valide e potrete guadagnare ulteriori miglia anche sui voli Air One. Per informazioni, flyairone.it e alitalia.com. Le 7:58. GR 24, il Sole 24 Ore. Obama sferza il Congresso per battere la crisi, ma l'Europa avverte l'America: nessuno può uscirne senza nuove regole. Accordo nella notte all'ONU per il cessate il fuoco a Gaza, ma intanto le Nazioni Unite sospendono gli aiuti. Si riapriranno da oggi i rubinetti del gas per l'Europa e in arrivo gli osservatori di Bruxelles. Niente scuse, Milano ha retto, il sindaco Moratti si difende passata l'emergenza neve. Buongiorno da Marta Cagnola e dalla redazione. L'Europa dunque alza la voce e chiede all'America una risposta mondiale alla crisi e soprattutto profonde riforme.